Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Oggi è il 26 giugno del 2014, è il giorno del live. Ci saranno 600 persone in platea e 8, 9, forse 10 musicisti sul palco. 10 storie e una roba che non si riesce a definire bene, ma è quello che crea la radio e si chiama comunità. Le 16 e 9 minuti in punto, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, lo stiamo raccontando da circa un mese, da circa una settimana è sold out, quindi non ci sono più posti per venire, ma questa sera alle 21 racconteremo 10 tra le storie più significative che sono arrivate durante tutta la stagione a Voi Siete Qui. È il terzo anno che lo facciamo, è il quarto in realtà contando anche Io Sono Qui, è il terzo partendo da Voi Siete Qui, dalle storie degli ascoltatori che raccontiamo tutti i giorni, ma questa sera c'è soprattutto una grande novità, perché durante gli scorsi live abbiamo raccontato, utilizzando le basi, le musiche che più o meno Tiziano sceglieva durante l'anno, ma visto che quest'anno abbiamo avuto una delle novità, era che facevamo dei mini concerti durante alcuni mercoledì dal vivo qui nei nostri studi, uno di quelli è stato Mauro Ottolini e una parte dei Sousaphonics, e questa sera Mauro Ottolini e quasi tutti i Sousaphonics suoneranno dal vivo, musicheranno e suoneranno per il nostro live. Mauro Ottolini è in studio con noi, ciao Mauro, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, racconta. Scusa, ho spostato il microfono, ho fatto un rumore orribile. Chiedo scusa a Roberto Scaltritti, che sono mesi che non ci segue e subito faccio sta brutta figura. Mauro, allora, arriviamo direttamente da Peschiera del Garda? Ecco, direttamente da Peschiera siamo arrivati con tutti i nostri strumenti più incredibili. Quanti siamo innanzitutto stasera esattamente? Allora, noi siamo in 9 musicisti questa sera, perché purtroppo Vincenzo Vasi, uno delle nostre punte, è venuto a mancare, nel senso che suona con Vinicio Capossella questa sera a Milano, esatto, in un altro teatro. Si starà ravanando dappertutto mentre ascolta la radio. Quindi saremo in 10 in totale, io che racconto le storie e voi che le musicate. Esatto. Io uso la mia voce. Ci sono tre ballerine, buonanotte. Ci sono tre cantanti che useranno anche loro la loro voce, che sono Vanessa. Sono due cantanti che sono Vanessa e Stefani. E poi che strumenti abbiamo, Mauro? Poi abbiamo la batteria, il contrabbasso di Danilo Gallo, poi c'è Terragnoli che suona banjo, strumenti a corda di ogni tipo, strumenti inventati da lui, anche il podofono, una specie di strumento che si usa con i piedi. Il podofono? Il podofono, no? E lui è il terra, giusto? Lui è il terra. Era perché prima eravamo giù a preparare con tutti, c'era Mauro Pescio, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni che è giù fisso, e continuavano a dire: il terra dove lo mettiamo? Il terra dove lo mettiamo? Perché effettivamente il palco, insomma, ve lo ricorderete se siete venuti, è un palco normale e va benissimo per una persona. Per 9 musicisti è un po' più complicato. E poi anche un po' sovrappeso, come siamo. No, perché lì la sostanza è che tu, che gestisci l'orchestra, la banda. Diciamo, io scrivo la musica, più che altro arrangio i brani, insomma, sono un po' il director. Tu devi avere tutti sott'occhio, cioè loro devono avere te sott'occhio, giusto? Per loro sfortuna devono vedermi, devono guardarmi, perché io do loro delle indicazioni ben precise che tu non sai, mentre tu leggi, e io ho preparato delle sorprese, degli strumenti, degli sottofondi, dei rumori, delle cose. Suoniamo che... anche i giocattoli stasera. Giocattoli, abbiamo parlato di pianoforte giocattolo e altri strumentini fatti a mano, le padelle della cucina. Che saranno. Prima ho visto che infatti Vanessa ha tirato fuori una padella, mi domandavo cosa servisse. È uno strumento del nostro backline. Visto che sono arrivati da poco e devono lavorare, io lascerei andare Mauro Ottolini giù alla Sala Collina a continuare a sistemare il palco. Ci sentiamo questa sera alle 21. Grazie, siamo pronti, avanti. Cioè, sempre avanti. Grazie Mauro Ottolini. Noi continuiamo 349 238 6666. Oggi raccontiamo delle piccole storie che sono tratte dalle storie che ci sono arrivate quest'anno. Non sono le 10 storie che racconteremo, altrimenti ci giocheremmo la sorpresa. Sono dei piccoli assaggi di quello che è stato quest'anno. Intanto, visto che cominciano ad arrivare messaggi al 349 238 6666, ma anche sul profilo Twitter e su Facebook, di persone che arrivano e dicono: c'è un posto in macchina, io vengo, non so come arrivare da Piazzale Lotto. A parte che Piazzale Lotto è qua dietro, quindi sapete come arrivare. Se avete una sorta di bla bla, Voi Siete Qui, e avete voglia di condividerlo, 349 238 6666. Vengo in Vespa, c'ho un posto in Vespa. Vengo in bici, c'ho la canna della bici libera. 349 238 6666, e come giustamente mi ricorda Tiziano Bonini, per chi non ci fosse questa sera dal vivo, c'è il video streaming in diretta www.radio24.it, e ho detto www, credo fossero 12 anni che nessuno lo diceva, radio24.it, in diretta per vedere tutta la serata, alcune delle storie di quest'anno. Marco era un grande appassionato di supereroi come Thor, Capitan America e altri, che invece a me non interessavano per niente. Mi chiese di prendere una spada e uno scudo e ci mettemmo di fronte uno all'altro in una improbabile posizione da combattimento. Prima ancora che Marco mi dicesse come usarli, preso, non lo so, forse dalla paura di essere aggredito per primo o da non so che cosa mi passasse per la mente, alzai la mia spada di legno e gliela sferrai addosso con un colpo fortissimo in pieno viso. Marco lasciò le sue armi e cadde sulle ginocchia in lacrime per il dolore. Non gli avevo fatto per fortuna nulla di grave, ma sanguinava dal naso e al momento sembrò una ferita mortale. Il garage con le armi sul pavimento, il pianto di Marco e la mia faccia terrorizzata sembravano comporre la scena di una tragedia. Oggi sono passati 40 anni, siamo ancora amici, Marco ed io, anche se viviamo lontani, io in Cina e lui in Romagna. Ci sentiamo un paio di volte all'anno e ricordiamo sempre con piacere i begli anni della nostra infanzia e adolescenza passati insieme durante le vacanze invernali ed estive sulle montagne del Friuli. Io non ho mai più compiuto un atto di violenza come quello, scriteriato, improvviso e senza nessuna provocazione. Eppure il ricordo di quel gesto così selvaggio e contrario alla mia natura quieta e appacificante mi dà ancora oggi il coraggio per affrontare situazioni difficili o stressanti e la forza e l'equilibrio necessarie per non subire l'aggressività di alcune persone. Questo perché dentro di me so che in qualsiasi momento potrei sferrare un colpo come quello là. E grazie a questo pensiero infantile ed assurdo non ho paura di niente e di nessuno. Zero zero ventiquattro, visto che continuano ad arrivare messaggi di gente che offre passaggi, facciamo che diamo voce diretta a chi viene in automobile, a chi viene in motocicletta, a chi viene in autobus e vuole un passaggio, a chi ha bisogno magari di una tenda per la notte. Esiste un campeggio a Milano, nessuno lo sa, ma a Milano esiste un campeggio, è vicino alla tangenziale ovviamente, però mi dicono che è molto ben rifornito, pieno di tedeschi e di olandesi. 800240024, al volo, da dove arrivate, qual è la città più lontana da cui venite, a che ora partite, con che automobile, non il modello, ma quanti posti avete in macchina? 800240024. Andrea, ti ringrazio per darmi il destro. Matteo, 21 o 21:30? Ieri erano 21:30, oggi le 21. Scusa, allora, l'altro ieri ho detto 21:30, credo 15 volte, ma mi sbagliavo, è alle 21. Precise, quindi venite qui quei 5 minuti prima, anche perché c'è la distribuzione dei libri, dei gadget di Radio 24, ci sono le ragazze bellissime del marketing di Radio 24, anche solo da osservare, quindi venite qui attorno a, che so, 8:30, 8:45, la serata comincia alle 21 in punto. 800240024 per raccontarci come venite, con chi venite e quanti posti avete in auto. Continuiamo con piccoli pezzi della stagione, questo è un altro racconto, era molto divertente, si intitola La bici di Moser. Devi sapere che la squadra per cui correva Moser era sponsorizzata dalla Supermercati Brianzoli, con sede a Cantù, vicino a Como. E sempre a Cantù, oltre che la sede e il magazzino, c'era anche un negozio nel quale io, fresco sedicenne, prestavo orgogliosamente servizio con la qualifica di fruttivendolo. Un sabato sera di febbraio, era il 1984, ormai all'ora di chiusura, mentre svolgevo un lavoro della massima importanza e delicatezza, cioè radunavo i carrelli sparsi per il piazzale, parcheggia un camioncino davanti all'ingresso merci. Ed io, già arrabbiato perché mi intralciava al lavoro, mi sono avvicinato e ho chiesto all'autista cosa volesse scaricare a quell'ora strana. L'autista mi ha messo in mano una bolla di consegna e ho notato che l'indirizzo era sbagliato e avrebbe dovuto andare in magazzino, ma a quell'ora non avrebbe trovato nessuno. A questo punto però è già tardi, l'autista è già sul cassone. Intanto vado a chiamare il mio capo, grande appassionato di ciclismo. Lo trovo e quando usciamo l'autista ha già scaricato lo scatolone. È una bicicletta stranissima. Anzi no, è quella bicicletta là. La riconosciamo subito perché un paio di settimane prima l'aveva vista tutto il mondo, vincente a Città del Messico. Al mio capo non sembra vero e a me sembra uno scherzo. Il boss non fa una piega, fa finta di niente, firma la bolla e saluta l'autista senza dire che avrebbe dovuto scaricarla da un'altra parte. Mi fa l'occhiolino, rendendomi complice di quella specie di rapimento involontario. Entriamo trionfanti nel negozio ormai deserto, bicicletta alla mano. A turno l'abbiamo provata tutti più volte, girando per le corsie vuote dentro lo supermercatino, finendo col festeggiare un colpo di fortuna inaspettato come se fosse un compleanno o la festa del paese, dove tutti hanno lo stesso motivo per essere felici. Sono passati 30 anni, ormai sono un uomo oltre i 40, il supermercatino non c'è più da un bel pezzo e il mio vecchio capo è morto. Ma quella bicicletta lo sa che, oltre alla gloria dei record, una sera di tanti anni fa ha fatto emozionare fino alle lacrime un gruppetto di ragazzi di provincia, lasciando un ricordo indelebile nel mio cuore. You walk on the sunny side, why I stay in the shade? Why can't we just walk together through the street that we've made? 'Cause it's all the same when it's done and over, it's all. Vengo con un furgone, c'ho due posti. Sì, ma ci devi dire da dove però. 800240024 o 349-238-6666. Questa sera sentirete storie che parlano di qualsiasi cosa. Sentirete delle storie che parlano di tempesta. Sentirete delle storie che parlano di avere 17 anni e sentirsi in grande difficoltà rispetto di quello che pensano gli adulti. Storie che parlano di dolci natalizi e di rapporti che rimangono tali per 50 e passa anni senza mai vedersi più. Parleremo di risotti molto molto particolari e di messaggi addirittura che arrivano dall'aldilà. 800240024, se sapete che state per venire, se magari siete in partenza, se avete voglia di condividere con noi il momento prima del live di questa sera, che ricordo è alle 21 precise qui via Monterosa 91, sede di Radio 24, o altrimenti se siete lontani, se siete dall'altra parte del mondo o anche solo a Boffalora Ticino e non potete venire perché nessuno vi porta, in streaming in diretta sul sito di Radio 24, radio24.it. 800240024 invece per condividere il vostro viaggio, il vostro arrivo qui questa sera. Vi leggo un ultimo raccontino di quelli che hanno caratterizzato quest'anno, che arriva da un signore, un ascoltatore che adesso è un signore ma è stato un bambino che aveva qualche problema ad apprendere. Sono nato nel 1961 e ho frequentato le scuole elementari nella seconda metà degli anni 60. Allora non lo sapevo, non lo sapevano i miei genitori e tantomeno la mia maestra, ma ero dislessico. Me ne sono accorto all'età di 24 anni, quando durante il trasloco dalla mia vecchia casa ho trovato dei miei quaderni delle elementari. Appena li ho visti, mi sono detto: cacchio, ma come facevano a non accorgersene? Ricordo che in quarta superiore, datomi per spacciato per la promozione, dimostrai alla mia professoressa di matematica che io il calcolo immaginario lo sapevo davvero, mostrandogli il compito in classe di elettronica. Credo che ancora oggi non riesca a capire come fosse stato possibile. Questo è stato il mio primo lampo. Il secondo è venuto un anno dopo, quando mio padre, disperato dalla mia incapacità di scrivere, mi portò da una professoressa di un liceo classico per farmi fare ripetizioni. Alla prima lezione mi disse: Marco, io cosa devo fare con te? Ma alla lezione successiva, appena seduto sul tavolo, pronto a fare un tema, mi guardò e mi disse: io ho capito che cosa ti serve. E caspita se l'aveva capito davvero. Non so come, ma mi ha insegnato a scrivere. Io, quella donna alta 1,60 m, magra, come un filo d'erba, leggermente zoppa, oggi l'amo ancora. Dopo le elementari e le medie riuscii a finire le superiori e dopo alcuni anni, avendo ovviamente fallito l'università e già lavorando come tecnico elettronico, per curiosità mi comprai un Commodore 64. Ecco, lì mi si aprì un mondo. Il computer era uno specchio perfetto, era la retroazione che mi occorreva per controllare la mia dislessia. ed era grosso modo il momento in cui, scoprendo il mio quaderno delle elementari, diagnosticai la dislessia stessa. L'ultima scintilla, quella davvero fatale, fu quando imparai a guidare un aeroplano. Ma questa è un'altra storia. Chi è venuto l'anno scorso, ancora ogni tanto, quando capita di scrivere o di incontrarlo, mi dice: beh, ma l'anno scorso, tra tutti quelli che c'erano presenti a raccontare la loro storia, c'era quella signora di Trento che raccontava dell'isola deserta. Quella signora di Trento che raccontava dell'isola deserta, ed è una sarda, si chiama Cinzia ed è al telefono. Pronto, Cinzia? Ciao, Matteo. Come stai? Che piacere sentirti, ciao. Anche per me e per tutti quelli che si ricordano della tua storia incredibile. La ricordiamo velocemente, Cinzia, abbiamo giusto un minuto. Tu sì. Andavi con il tuo allora compagno, giusto? Sì. In questo posto che è, me lo ripeti? L'isola di fronte all'isola di Albarella, si chiama Scano Cavallari. Benissimo. Ed è un'isola deserta da una parte. La raggiungeste con un canotto, con al seguito un altro canotto carico di roba per il campeggio. Poi, quando ci arrivaste, dopo averci campeggiato la notte meravigliosa sotto le stelle, vi accorgeste che in realtà, girandoci dall'altra parte, era una penisola praticamente, quindi avreste potuto arrivarci a piedi. Cinzia, come stai? Com'è nato il tuo anno, visto che è un anno che non ci sentiamo? Benissimo, sempre qua dentro, agli arresti sartoriali. Gli arresti sartoriali, perché Cinzia è una sarta. Al volo, Cinzia, che cosa stai cucendo in questo momento? Ah, guarda, ho tre abiti da matrimonio, poi per quello che non riesco a venire stasera, però in compenso una signora, una ragazza che ha partecipato al live l'anno scorso è venuta a trovarmi e mi ha portato dei pantaloni da cucirmi. Benissimo, quindi ti abbiamo portato... E c'è stasera e ti verrà a salutare anche da parte mia. Con i pantaloni che gli hai cucito. Cinzia, ci mancherai moltissimo, ma se riesci guardaci in streaming dal sito di Radio 24. Sicuro che non ti perdo mai nessun giorno come brava Cinzia, sei la migliore di tutti. Ciao, buona serata. Ciao, grazie ancora. 349-238-6666. Ciao Matteo, io non ho prenotato, vengo uguale? Sarei orgoglioso. Fabio, guarda, cioè... Io dovrei dire, esatto, Elisa Piras del marketing mi uccide se io ti dico di venire lo stesso. Detto questo, no, non puoi venire perché non hai prenotato. Però magari, non so, stai qua fuori. Di che Matteo ti ha detto di venire in diretta. Guarda, fai così, mi rovini. No, non puoi venire. No, arrivano tutti. No, non potete venire se non avete prenotato. Cioè, è chiuso da una settimana. Grazie a tutti che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono tutti di là dal vetro. Sono Roberto Scaltritti, sono Tiziano Bonini, Mauro Pescio, Margherita Ina. E pensate un po', è incredibile, e in mezz'ora non abbiamo parlato di Balotelli. Credo sia l'unica mezz'ora della vostra vita, in cui, degli ultimi due giorni, in cui non avete sentito parlare di Mario Balotelli. Noi ci sentiamo questa sera, ci vediamo al live alle 21 in punto, altrimenti in streaming. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo anno, per tutti quelli che hanno raccontato le loro storie. A questa sera e poi domani in diretta alle 16. Sono Marco, la storia di domani è la mia, è una storia che parla di corsi in macchina, ma soprattutto di quando ho conosciuto la paura e siamo diventati quasi amici. Questa è la mia storia e io sono qui.